Ciao a tutti e a tutti, grazie per essere qui e in particolare grazie a te Marilena per aver accettato il nostro invito. È un piacere, grazie. Buona serata Sara, buona serata a tutti e tutte. Questa presentazione si inserisce all'interno del nostro quarto festival, Eterotopie, che ha come sottotitolo Storia, con la S maiuscola, Storia e Identità. E oggi presenteremo appunto il libro di Marilena Negretta, Baci razzisti, e abbiamo scelto questo, insomma, di invitarti e di leggere insieme questo libro perché ci sembrava potesse essere molto interessante per approfondire tutte le tematiche e le domande, ecco, che volevamo porci rispetto a temi quali il razzismo, l'antirazzismo e il colonialismo. Eterotopia è iniziato, cioè doveva svolgersi a marzo dell'anno scorso, però per ovvi motivi è stato rimandato e è iniziato a dicembre. Questa è la quarta presentazione. In generale, la libreria Sabò è nata ormai più di 4 anni fa all'interno di uno spazio autogestito, il TNT di Iesi, e da allora ci siamo sempre impegnati, abbiamo organizzato presentazioni, abbiamo creato un gruppo di lettura a cui siamo molto affezionati perché ci permette di confrontarci sui libri che presentiamo, sui libri che scegliamo di leggere. E sulle diverse tematiche. E noi facciamo parte di una rete più ampia, appunto, come ti accennavo prima, che si chiama Barricate di Carta, al cui interno fanno parte anche la libreria Alvurtura di Senigallia e la libreria Colonna 130 di Fano. Tutte le persone che comunque partecipano a questo progetto, a questa rete, partecipano in maniera totalmente volontaria, quindi è una passione anche che ci porta, ecco, a fare questo tipo di attivismo e di utilizzare poi il libro come strumento di confronto e di analisi critica della realtà. Ecco, passerei alla presentazione proprio del tuo libro, che è un libro che devo dire ho letto davvero tutto di un fiato. È stata una Davvero? lettura molto, molto piacevole e allo stesso tempo anche un po' mi ha messo in difficoltà in alcune parti perché comunque ci sono degli episodi molto forti, molto duri. E in generale presento un po' il libro. Il libro racconta la storia di Marilena, che è una ragazza che cresce a Bergamo. La mamma di Marilena è ruandese e il papà invece di Marilena è Giuseppe, la madre si chiama Chantal e il padre è Giuseppe ed è un ex prete ed è proprio di Bergamo ed è anche leghista. Questo particolare mi sembra importante anche da sottolineare. Il contesto in cui si sviluppa il romanzo è un contesto strutturalmente e culturalmente razzista e anche maschilista. Ogni capitolo del libro, che è suddiviso anche in piccoli capitoli, presenta un po', no, un po', presenta degli episodi di quotidiano razzismo. In questi episodi, in queste vicende, la protagonista cerca di comprendere, di affrontare e di, sì, di affrontare la complessità della realtà in cui si trova. Ci sono dei continui anche flashback che da un certo punto di vista disorientano un pochino il lettore, almeno è quello che io ho provato, perché non sapevo bene se mi trovavo a Bergamo o se mi trovavo da un'altra In parte, Ruanda, Ruanda, ecco lì. esatto. E Però questa cosa è stata molto interessante anche perché in questi flashback si aprono finestre e racconti dell'infanzia e dell'adolescenza dei genitori di questa ragazza. E che danno secondo me un contributo sostanziale anche alla storia e anche alla definizione dei personaggi stessi che tu hai presentato. Però volevo adesso anche lasciarti la parola e chiederti un po' che cosa ti ha portato a scrivere questo libro, un libro che è una... possiamo definire, penso, un'autofiction, perché racconta, come dire, prende ispirazione dalle esperienze della tua vita, però non è totalmente fedele alle tue esperienze, immagino, da quello che un po' documentandomi ho letto. Però ecco, ti volevo proprio chiedere qual era la motivazione che ti ha portato a scrivere questo libro. E anche perché hai scelto questo titolo, Negretta, ma soprattutto anche questo sottotitolo, Basi Razzisti, che è un titolo che porta insieme due parole totalmente contrastanti fra loro. Beh, grazie Sara. Ho deciso di scrivere Negretta Baschi Razzisti, che è il seguito del mio memoir Razzismo all'italiana, che è stato pubblicato nel 2016, perché sono cresciuta senza uno straccio di rappresentazione. Ogni volta che le persone di origine straniera, come me, le persone nere in generale, erano narrate, raccontate, era sempre fatto in negativo. Sono cresciuta con libri in cui l'uomo nero era quello che, da cui dovevi sfuggire, lo trovo ancora nei libri che addirittura leggo a mia figlia. Il nero era associato comunque sempre al negativo, lupo nero, piuttosto che il gatto nero porta sfiga. Sicuramente nei mass media la narrazione nei confronti dei corpi neri è sempre stata fatta secondo i filoni della criminalità, della disperazione e della prostituzione quando si trattava di donne. Quindi ho deciso di cambiare la narrazione, un po' di decolonizzarla da tutti questi stereotipi con cui sono cresciuta, innanzitutto scrivendo in prima persona l'esperienza di una persona di origine straniera, visto che spesso anche gli stranieri sono stati raccontati non dai diretti interessati. E penso che ne esca anche un punto di vista diverso, e questo secondo me è importante. Quindi quando scrissi Razzismo all'italiana lo feci perché avevo letto dell'ennesimo episodio di un barcone che quella volta rovesciava più di 700 migranti in mare, e presa un po' dalla rabbia, dalla frustrazione, iniziai a scrivere senza pensare di essere pubblicata. E poi diventò un libro. 4 anni dopo, ecco che è nato questo romanzo Young Adult. Lo hai descritto benissimo. Questo è un testo a istantanee, in cui che veramente rispecchia la mia identità frantumata. È proprio come uno specchio in frantumi, perché è fatto da tanti pezzi, da tante parti, tanti momenti che però non possono seguire un ordine cronologico, e in cui faccio anche un profondo scavo a partire proprio dalle figure dei genitori, senza le quali non si possono comprendere, non si può comprendere l'identità della protagonista. Un'identità che viene messa in discussione fin dalla nascita, visto che all'anagrafe i genitori vanno per registrare il nome Umuhoza, che non a caso si trova sul mio libro, con il quale ho firmato il libro. L'impiegato disse a mio padre che dei nomi del genere erano ridicoli, non potevano finire su un documento africano, e quindi non è stato mai registrato. Tra parentesi, 30 anni dopo la stessa cosa è successa quando sono andata io a registrare il nome di mia figlia, scelto con tanto amore dalla sua nonna, e ancora una volta l'impiegata mi ha detto no, questi nomi africani noi non li mettiamo, ma non la può chiamare Maria? Che per carità è un nome bellissimo, ma non c'entra assolutamente niente. E Negretta è il titolo che ho dato a questo libro perché è l'etichetta che mi è stata incollata addosso dal momento in cui sono venuta al mondo in ospedale dagli infermieri, al momento in cui ho messo piede a scuola, quindi dai compagni di classe piuttosto che dalle maestre e poi dalle professoresse, ma anche da vicini, parenti, come dicevo prima, impiegati pubblici e forze dell'ordine, e quando non erano le persone a etichettarmi così c'erano i muri, che comunque con le loro scritte "affondati i barconi, immigrati fuori" ricordavano a me e alla mia famiglia che eravamo indesiderate. E il libro è percorso da tutta una serie di microaggressioni, quelli che il pensatore camerunense definirebbe nanorazzismi, cioè sono, lui le chiama forme narcotiche del pregiudizio, secondo cui che si esprimono attraverso delle frasi fatte, battute, all'apparenza innocue, ma che in realtà vogliono stigmatizzare, escludere e spogliare dalla propria dignità un essere umano. E queste microaggressioni le vediamo fin dal primo giorno di scuola, ad esempio, a parte l'episodio all'anagrafe, anche il primo giorno di scuola, quando l'insegnante dice alla protagonista: "Ah, ma Marilena, vedi, qui impariamo l'italiano che è diverso dall'africano che sei tu", quindi includendo nell'africano le migliaia di parlate in un intero continente. E poi ci sono frasi del tipo: "Ah, però sei bella per essere nera", no? Oppure nel libro poi si trovano frasi del tipo: "Ah, ma come parli bene l'italiano", dopo aver spiegato molto bene che sono nata e cresciuta in Italia. Oppure, lo sai, quando il preside dice alla protagonista: "Ma sai che in Italia, vedi, funziona così, in Africa so che è diverso, ma..." Oppure anche cose che non ho neanche riportato nel libro, ma che sono successe a me con mio padre, quando da piccola gli chiedevano: "Ah, ma è adottata?" E 30 anni dopo gli avrebbero chiesto: "Ah, è la sua badante", no? Quindi ogni capitolo contiene almeno una o più microaggressioni, e la cosa triste è che sono quasi tutte vere, e per non parlare poi del razzismo sistemico. Riporto uno su tutti gli episodi della madre della protagonista. Lei è ruandese, è sopravvissuta a 3 genocidi, a 5 anni è stata rapita dai belgi, su cui testarono il vaccino della poliomielite, tutto questo è vero, e che finì per contrarre, e da allora zoppica. Lei passa dal razzismo del suo paese, un razzismo fomentato dai coloni belgi, che per primi introdussero le carte d'identità per distinguere le due tribù, Hutu e Tutsi, in base a dei principi fisionomici puramente soggettivi, e così portando all'esplosione di ben 3 genocidi, passa da quel razzismo al razzismo del paese di suo marito, ed è una donna che ha a che fare con il razzismo sistemico più e più volte. L'episodio che riporto è quello della volta che le fu negato il diritto al voto, quando lei aveva da sempre votato, ma un impiegato al comune di Seriate le disse che non poteva votare perché i N non votano, e quindi mia madre, che aveva subito il razzismo in tutte le sue sfaccettature, umiliata, percossa, e lo aveva vissuto sempre in modo silenzioso, quella volta decise di rompere il muro di silenzio e di far valere i propri diritti, visto che anche lei conosceva bene la Costituzione italiana e la rispettava, quindi non poteva tollerare che quella stessa Costituzione in cui lei credeva fermamente non fosse rispettata, e così trascinò il comune in tribunale. Per la prima volta intentò questa causa legale contro il comune e la vinse. La volta successiva, quando andò a votare, cambio di tono e di registro: "Signora, prego, si accomodi. No, non c'è bisogno che ci mostri il documento di identità, la conosciamo benissimo." Quindi dico anche il cambio di registro, perché a mia mamma è sempre stato dato del tu e mai del lei. È una mamma che è più, sicuramente si sente più europea che africana, paradossalmente, perché si spoglia di tutte le sue tuniche ruandesi per abbracciare la moda italiana, mangiare l'italiana, parlare italiano, e così vuole che faccia anche sua figlia. Quindi la figlia deve usare saponi sbiancanti, deve usare questi saponi, deve usare dei prodotti per lisciare i suoi capelli, perché in questo modo possa somigliare alle coetanee della sua età, alle altre ragazze italiane. Poi naturalmente deve fare del proprio meglio a scuola, deve primeggiare, e quindi le dice, una frase del libro è: "Ricordati che tu devi rimboccarti le maniche 10 volte più degli altri, perché loro ci guarderanno sempre come degli esseri inferiori." e quindi naturalmente giù a studiare, ben oltre l'ora montessoriana dei miei compagni. E poi c'è molto complessa la figura del padre. Lui, a differenza della madre, si sente più africano che europeo, diciamo, perché ogni occasione è buona per parlare dell'Africa, lui sogna l'Africa di notte per poi svegliarsi nell'asfalto della fabbrica in cui lavora. Come ha detto bene Sara, mio padre era veramente un ex missionario leghista e per amore lasciò il talare. E questo lo pagò ad un prezzo altissimo perché recise legami con la famiglia ed ebbe sempre problemi nel mondo del lavoro, visto che nessuno voleva una persona che aveva 40 anni e passa, entrava per la prima volta nel mondo del lavoro e che aveva alle spalle una famiglia con una famiglia di praticamente extracomunitari, come dicevano loro. E quindi, nonostante la sua vasta cultura, nonostante parlasse inglese, francese, più cicewa e kinyarwanda e avesse una grande esperienza, comunque studi teologici, ma anche comunque una bella testa, fu costretto a svolgere dei lavori, i lavori più umili, no? E quindi la nostra famiglia, quindi la famiglia anche del libro, naviga in cattive acque economiche, passa da una periferia di Bergamo all'altra. E la protagonista cresce infatti in fabbrica, o meglio, in più di una fabbrica. Quindi questa identità è fortemente sotto pressione, è un'identità spaccata in due, perché da un lato ci sono le pressioni della società, in tutte le sue forme di razzismo, in tutte le sue sfaccettature, sistemico, istituzionale, le microaggressioni, e poi ci sono le pressioni della madre che vuole che faccia del proprio meglio e che facendole usare certi prodotti per il corpo praticamente le dice, sicuramente senza pensare di farle del male, ma quello che il messaggio che passa è: te sei inadeguata. E poi c'è il padre dall'orientamento leghista che chiaramente è disorientante di per sé. E poi da un lato c'è semplicemente una ragazza che vuole essere una ragazza come tutte le altre ragazze della sua età e vivere i suoi anni in spensieratezza senza pensare al colore della pelle, e questo accade ogni volta che si trova con la sua migliore amica, che è un'amicizia questa che nasce tra i banchi di scuola e per la precisione su un pulmino, quando i bambini razzisti cominciano un coro. Chiamano una caffè perché la pelle è troppo chiara, troppo scura, la protagonista, un'altra perché la pelle è troppo chiara, la chiamano latte. Questo coro caffè latte cresce e alla fine fa sì che queste due ragazze, emarginate per motivi completamente opposti, diventino migliori amiche e si ispira effettivamente a una reale amicizia, e quel nome loro ne fanno un orgoglioso nome di battaglia, lo mantengono, caffè e latte, per tutta la loro infanzia e anche adolescenza. Il finale poi del libro è molto bollente, ma letteralmente hot, e quindi consiglio a tutti veramente di andare a leggerlo. Questo è il libro spiegato in pochi minuti. Grazie, però avevi fatto una panoramica molto interessante. Infatti volevo, hai citato l'episodio in cui la mamma, appunto, la mamma viene impedito di votare dall'impiegato comunale, e lei appunto lotta con tutte le sue, insomma, mezzi, strumenti per far sì appunto che lei possa come dire, esercitare il suo diritto. Mi ha colpito molto, è stato uno degli episodi che più mi ha, da un lato mi ha fatto arrabbiare, non lo so, tanti sentimenti contrastanti, e mi è venuto in mente che ho pensato a quanto, anche se la legge italiana, adesso in questo caso penso che tua madre abbia tua madre aveva ottenuto la cittadinanza perché si era sposata. Sì, era l'ultimo anno possibile in cui si acquisiva la cittadinanza automaticamente all'atto del matrimonio con un cittadino italiano, l'ultimo anno, e quindi lei aveva acquisito la cittadinanza al momento in cui aveva contratto il matrimonio con mio padre. Oh, esatto, e in quel momento appunto la legge italiana permetteva, c'era un diritto che veniva riconosciuto, però appunto nella realtà Cioè, mi è venuto in mente questa cosa, che a volte, no, può esserci una legge che a livello istituzionale garantisce e assicura il diritto alle persone, però poi se nella realtà questo diritto non viene riconosciuto, non viene rispettato, non si fa un lavoro anche culturale per far sì che questo diritto appunto venga rispettato in ogni sua Un lavoro legale. Esatto, in ogni sua forma. Niente, ti volevo chiedere, cioè, come all'interno dei piccoli contesti, delle realtà vere, reali, appunto, delle persone, tra le persone, come si può in qualche modo far passare una certa educazione, un certo messaggio, l'importanza del cambiamento, appunto, come questo diritto, oltre che essere questo diritto o qualsiasi altro tipo di diritto, oltre a esserci sulla carta, se c'è ovviamente, come si può poi rendere vero e riconosciuto a livello proprio di contesto. Sì, io rispondo. Sicuramente, allora, già il fatto che in questo momento noi siamo qui e ne parliamo è già una cosa molto importante, ne stiamo parlando, parliamone. Secondo me, davvero, attraverso la narrazione va cambiata e, per esempio, scrivere è proprio un modo per cambiare quella narrazione, quindi parlo anche quindi di scrittrici, di scrittori come me, giornalisti, che sicuramente bisogna cercare di cambiare la narrazione e fare tutto un lavoro di decolonizzazione culturale, cioè tutta una decostruzione degli stereotipi legati alle persone di origine straniera, alle persone nere, e che tendono a disumanizzare, a strumentalizzare i corpi neri. E come si può fare? Cambiando la narrazione. Per esempio, parlavo prima della narrazione mediatica che tende sempre a descrivere i corpi neri secondo il filone della disperazione piuttosto che della criminalità, piuttosto che della prostituzione. E poi anche una cosa importante, secondo me, che manca in Italia è un'analisi veramente critica diciamo postcoloniale, quindi sulle reali responsabilità dell'Italia durante l'epoca coloniale, perché quegli strascichi sono presenti proprio a livello culturale nel nostro paese. Pensiamo anche solo alla feticizzazione del corpo nero femminile, penso a vignettisti come Enrico De Seta che rappresentava le donne abissine completamente nude. E ricordiamolo che la donna nera in Italia non solo è soggetta al razzismo strutturale e al sessismo, ma anche all'arretraggio coloniale. E poi, appunto, sì, bisogna veramente lavorare insieme per cambiare la narrazione, per decolonizzare i mass media, per decolonizzare le scuole, per decolonizzare tutti questi i testi di scuola. E poi soprattutto secondo me è veramente importante anche proprio agire a livello legale e votare. E sicuramente il voto è uno strumento prezioso per cambiare anche le cose e io ci credo veramente molto per quello che per esempio mi fa veramente dispiacere sapere che attualmente esiste una legge sulla cittadinanza. Ius sanguinis si chiama, cioè una legge che si basa sulla purezza del sangue. E questo praticamente dice a quasi 1 milione di ragazzi che sono nati, cresciuti in Italia, parlano italiano, completamente parte della cultura, che magari non sono neanche stati nei paesi d'origine dei loro genitori, ne parla la lingua dei loro genitori di origine straniera, che si sentono italiani al 100%, che loro non, innanzitutto, quindi non si possono sentire parte completa di questo paese. Perché? Perché il governo dice loro che hanno la colpa di avere dei genitori di origine straniera. Bel messaggio per le nuove generazioni di italiani. E questi sono quindi ragazzi che non possono andare a fare l'Erasmus in gita, non possono fare concorsi, non possono partecipare a livello agonistico a gare sportive. E in più ricordiamolo che c'è un gap elettorale, carissimi, perché i tempi di attesa dall'inoltro della domanda di cittadinanza è di ben 3 anni. Un tempo erano 2, poi grazie al nostro fantastico Salvini e ai suoi decreti famigerati sicurezza, sono aumentati a 4, poi per darci il contentino hanno ridotto a 2, hanno ridotto a 3 anni. E questo vuol dire che ci sono dei ragazzi tra i 18 e i 21 anni, ma in pratica anche 22, 23 anni, perché poi concretamente parlando i tempi della burocrazia non sono proprio esatti, che non possono votare. E sono dei ragazzi che sicuramente apprezzano il voto molto più dei tantissimi astensionisti che neanche apprezzano appunto questo strumento importante, ne lo usano e sono molto motivati a votare questi ragazzi a cui è negato il diritto di voto, perché che cosa vogliono fare? Vogliono cambiare le cose a partire da questa legge sulla cittadinanza, che secondo me è il picco del razzismo istituzionale in Italia. Vado avanti. No, cioè devi avevi concluso? Sì, ho concluso. Dovevo accendere solo il microfono, ma parlavo e ce l'avevo spento. C'è una postfazione nel tuo libro di Sara, di Stella Jean. Lei è una famosa stilista afrodiscendente, è italo-haitiana e è stata scoperta da Giorgio Armani negli anni 10 del 2000. E quindi fa moda etica ed è veramente straordinaria e secondo me proprio incarna l'esempio di davvero di forza, di resilienza femminile, un punto sicuramente un modello nero positivo per tutte le nuove generazioni di italiane, secondo me. Prima di leggere quest'ultima parte della postfazione, pensavo a quanto il contesto che tu descrivi, la Bergamo, la città, gli amici, i compagni di scuola. Grazie Sara per aver detto, ecco, questa cosa mancava, che invece è fondamentale. Il libro è ambientato appunto a Bergamo, che è una delle roccaforte leghiste per eccellenza. Esatto. Bravissima. Questa lettura mi ha portato proprio a dire: mamma mia, ma come faceva Marilena a vivere in quel contesto e comunque ad essere, ovviamente, almeno da quello che dalle emozioni che io ho provato poi leggendolo, ovviamente era disorientata, era comunque doveva barcamenarsi appunto fra tutte queste varie identità poco riconosciute, perché non era solo la sua, no, identità non essere riconosciuta, ma anche quella del padre, da un certo, come raccontavi prima, no, comunque perdere il lavoro, vivere in un contesto difficile, quindi anche per la madre. E quindi provavo una sorta di rabbia, no, per questo contesto che non cambia, perché poi nel tuo libro non, alla fine non c'è neanche, non lo so, la fine tu racconti appunto che le cose non possono cambiare se nessuno vuole cambiarle, quindi esatto. C'è anche una sorta di ciclicità, no, delle cose, che le cose non sono mai cambiate, si sono sempre ripetute, anche poi avevi raccontato, no, il fatto di tua figlia, che anche lei, no, non poteva avere, insomma, ti avevano risposto, l'impiegato comunale aveva risposto come avevano risposto a tuo padre, no? Però poi leggendo la postfazione c'è Stella appunto che insomma mi hai un po' illuminato. Perché lei dice, cito un attimo due righe, l'impotenza che ti assale quando vorresti reagire e restituire pan per focaccia, ma il sangue del tuo aguzzino ti scorre nelle vene e non puoi separarlo dal tuo. La sua terra è la tua amata casa e i suoi occhi sono identici a quelli di tuo padre. Attaccare l'aggressore di turno equivarrebbe a una pratica di cannibalismo e di conseguenza a un inqualificabile autogol. E questo mi ha fatto un po' riflettere, perché effettivamente la mia rabbia in realtà era solo poi quando, dopo aver letto questa parte, in realtà da parte di Marilena, della protagonista, non traspare tutta questa rabbia. Nel senso, il libro mi sembra molto libero dal giudizio di del contesto in particolare, un contesto che è così per determinati motivi storici, sociali, politici, e che è analizzato appunto senza giudizio ma con una visione molto critica e lucida. E questo nella postfazione, secondo me, rende molto chiara poi questo aspetto e questa situazione. E vorrei chiederti se effettivamente è così, la tua è stata una volontà di analisi di Bergamo, di questa città, della situazione reale, appunto, di questi contesti. Io ho scritto questo libro, il modo in cui l'ho scritto, diciamo che c'è molta poesia, almeno così io credo, tant'è che i capitoli in generale sono brevi, e originalmente avevo chiesto all'editore di avere ogni capitolo per pagina. Il mio intento non è quello di scrivere, mettere per iscritto le emozioni. Io te le voglio fare vivere mettendoti davanti a dei fatti. E purtroppo molti di quei fatti, tra l'altro, sono veri, soprattutto gli episodi di razzismo descritti. Secondo me l'unico modo, come scrittrice, questo è il mio punto di vista, per davvero toccarti e raggiungerti è mettendoti di fronte a dei fatti che io ho vissuto senza doverne scrivere le emozioni. Sei tu che le devi vivere. E tu ne avrai una percezione diversa in base al tuo contesto, in base alla tua esperienza personale, ma tu ti trovi davanti a quei fatti, forse per la prima volta o forse li conosci molto bene. E come li vivi quei fatti? Cosa provi? Non te lo posso dire io. Lo vedi scritto magari in quelle litigate dentro alla fabbrica, o quando la bambina, la protagonista bambina, davanti al muro vetrato, davanti al cancello vetrato della fabbrica, guarda l'autostrada e alza la gonna e grida tutti quei suoni che ci sono dentro alla casa, e tutte quelle urla e quelle litigate tra genitori, le urla in un grido disperato. Ma senza mettere parole, semplicemente con immagini come queste, in cui tu entri nella storia. È come se tu, io spero di aver fatto così con questo romanzo, tu sei lì con me a vivere tutte quelle storie, tutte quelle microaggressioni, in compagnia di quelle persone che ormai conosci benissimo e che sono diventate così intime, che ti mettono a disagio. E non è facile, sai, Sara, farlo, perché comunque è quasi una forma di denudazione, nel senso che tu veramente spogli la tua anima e ti dai, ti esponi completamente, e secondo me è l'unica maniera per farti capire quello che io ho vissuto, senza filtri. Poi c'è un'altra tematica che volevo affrontare con te, che è quella del sessismo, del maschilismo, perché in questo libro le figure maschili, in particolare anche i compagni di scuola di Marilena, o anche durante le serate, no, che lei fa, queste serate super divertenti e pazze che lei fa con la sua amica, sono presenti sempre degli uomini che comunque si prendono un po' anche la libertà di toccare, di fare tutte, anche qui, quelle azioni di maschilismo, sessismo, diciamo, quotidiano, contro anche lì, no? Racconti, secondo me, in maniera forse, ecco, un po' più meno, come dire, di lato, ecco, queste problematiche, ma comunque le affronti. E volevo, ecco, chiederti quanto anche questa questo atteggiamento maschile o comunque sessista si va a, ad incontrare con il problema della tematica, scusa, del razzismo e le azioni di razzismo. Allora innanzitutto voglio tornare al titolo del libro, anzi al sottotitolo, che è Negretta baci razzisti. Quindi quei baci di cui parlo sono tanti i baci che costellano il libro, dei baci invisibili, cioè quelli mai dati tra i genitori, al primo bacio, ai baci perugina, al bacio, un bacio di Giuda da parte di qualcuno che stava molto a cuore alla protagonista, ma i baci a cui mi riferisco io sono i baci che si trasformano in veri e propri abusi fisici da parte di chi la riduce a nient'altro che una prostituta per via del colore della sua pelle. E di esempi di sessismo nel libro ce ne sono davvero tanti, sia in ambiente scolastico che lavorativo. Sicuramente c'è una forte connessione tra sessismo e razzismo, e come, anzi, purtroppo, come dicevo prima, una donna nera, oltre a dover subire il sessismo e il razzismo strutturale, soffre anche poi di tutta quella serie di stereotipi che fanno parte del retaggio coloniale italiano e che sono tuttora presenti. Episodi di sessismo, poi ce ne sono e come, anche per esempio quando nel libro c'è un capitolo in cui la protagonista, che è appena penso undicenne, sta facendo un giro con l'amica, passa un camion diciamo che fa degli apprezzamenti pesanti, e da lì poi comincia veramente, quando questa praticamente bambina inizia a svilupparsi, iniziano le avance da parte degli uomini che la vedono proprio come una vera e propria preda, perché il colore nero è associato in questo contesto sicuramente di Bergamo, ma non solo, ha comunque il colore della prostituzione, alla ragazza facile, e quindi ti dirò anche una cosa, voglio mettere luce anche su un altro aspetto del razzismo di cui magari non si parla molto, ma le conseguenze del razzismo sono, oltre al senso di inadeguatezza, di inferiorità, alla diffidenza nei confronti delle persone in generale e dell'autolesionismo, sono anche nei problemi alimentari. Io non ne parlo, ma ho sofferto di problemi alimentari, volevo terribilmente diventare invisibile, perché a un certo punto era diventata veramente pesante la situazione, e quindi passi per strada e quindi le macchine che ti dicono, che ti gridano ma quanto, oppure il nonno di turno che è sempre lì alla stazione e ti aspetta, nonno di famiglia del paese. E tutte queste aggressioni, queste molestie che ovviamente ti fanno desiderare di voler essere invisibile e quindi di voler dimagrire. E quindi effettivamente ricordo che sui 20 anni mi misi a fare una mega dieta e veramente stavo dimagrendo così tanto che i miei si stavano anche preoccupando, proprio perché volevo essere invisibile, ero stufa di sentirmi le persone che mi dicevano ma che cosa hai nel sedere, hai il cuscino, ma è vero, e quindi questo ha veramente le conseguenze del razzismo, sono reali, sono fisiche, sono veramente delle cicatrici che ancora mi porto, e a livello mentale poi neanche ne parliamo. Chiaramente il senso di inadeguatezza è difficile da rimuovere, e acquisire una certa sicurezza per me ha voluto dire intraprendere un lungo percorso molto molto lungo a cui non sono neanche arrivata del tutto. Solamente ora, in quanto madre, avendo una figlia che potenzialmente rischia di vivere le mie stesse difficoltà, visto che a fine libro, come dicevamo bene prima, poco sembra essere cambiato in un paese che non vuole cambiare, rischia di vivere le stesse situazioni, e se non sono forte io, come può farcela lei? Volevo leggere una parte del libro che mi ha colpito, e anche chiederti magari se avevi una volevi condividere con noi una qualche riga del tuo libro, un episodio a cui sei particolarmente legata. Mi è piaciuta molto la parte in cui la mamma a un certo punto deve ritornare al lavoro dopo un periodo ed era quando sì, Marilena era stata cacciata da scuola e hanno questa conversazione dove appunto per Marilena le è caduto il mondo addosso, no? Lei ha perso tutto il suo mondo. Lei dice: è una certa, la mamma va via, poi ritorna ed è vestita di tutto punto per andare al lavoro. E Marilena le dice: ma dove vai, no? Vestita così? E lei le risponde: quando si sente giù, così giù da desiderare la morte. Una vera ruandese si lava la faccia, si trucca ancora di più e sfoggia l'abito più bello, pronta per la lotta, determinata a ricominciare e ad andare avanti. Tu lo sai, principessa? Questa frase mi è piaciuta perché, cioè, mi è piaciuta, insomma, è una frase secondo me molto forte, un po' perché questa figura della mamma. Che appunto è una figura molto forte, no? Ha vissuto appunto, come raccontavi prima, due genocidi e tutta la questione poi della sperimentazione, quindi delle cose molto molto dolorose nella vita. Arriva in Italia, deve fare di tutto per essere accettata e nonostante tutto questo, lei continua ad essere, ecco, a volersi comunque dimostrare forte e per far sì ecco che nessuno la possa in qualche modo ne possa toccare comunque i suoi punti deboli, la possa affliggere ancora di più. Nonostante questo, però, volevo chiederti se nonostante tutti questi sforzi, poi realmente la realtà in cui lei ha vissuto ha come dire, cioè, non so come spiegarlo, però cioè, se questi sforzi anche di cercare in qualche modo di assimilarsi, no, alla realtà, in cui viveva, sono serviti. E che cosa Marilena provava quando la madre le diceva appunto che doveva studiare perché, doveva, no, rispettare un certo, canone sociale e quant'altro? Beh, allora, una cosa che, a cui tenevo molto fare in questo libro è anche donare una prospettiva diversa delle persone straniere in Italia, in questo caso mia madre. Io faccio uno scavo nella sua figura. Lei comincia a lavorare in Italia per necessità, naturalmente, in un'epoca in cui le madri stavano a casa, però erano tutte casalinghe, le madri dei miei compagni, quindi parliamo degli anni 80. Anni 90. Ma mia madre, che cominciò quindi a lavorare pulendo i pavimenti, facendo la donna delle pulizie nelle case e poi pian pianino diventò contabile in un'azienda americana, piano piano, però era una donna che nel suo paese era molto rispettata, era direttrice di collegio, aveva anche delle amicizie abbastanza potenti. E ecco come invece l'Italia innanzitutto non riconosce il suo titolo di studio e per questo è anche costretta a partire da lavori molto, molto più umili. Però parliamo di una donna con un background culturale molto vasto, che parla molte lingue. E sicuramente quindi lei ha sempre questo orgoglio e non dimentica mai chi è, indipendentemente dal lavoro che magari svolge, che è umile, che è semplice, dalla povertà che attanaglia la famiglia in Italia. Sicuramente per la figlia, per la quale fa questi sacrifici in mani, auspica il meglio sicuramente le ricorda costantemente che non deve dare per scontato ciò che ha, anche se vive in una situazione, in un quartiere degradato, in fabbrica, con la ferrovia, la stazione ferroviaria dietro, la tangenziale davanti, l'aeroporto a due passi, che poi queste coordinate cambiano in base alle differenti fabbriche, case in cui si trasferiscono. La figlia non deve dare per scontato che comunque lei è sua figlia e per la quale ha fatto questi grandi sacrifici, che deve dare sempre il massimo, ricordandole anche, come dicevamo prima, che lei deve fare molto più degli altri, perché effettivamente mi viene in mente una frase di Ta-Nehisi Coates, che è uno scrittore afroamericano, ha scritto questo libro bellissimo, Tra me e il mondo, che dice: in realtà quando i genitori afroamericani dicono ai loro figli che devono rimboccarsi le maniche il doppio rispetto agli altri, stanno dicendo loro che si devono accontentare della metà. Quindi lei sa che sua figlia purtroppo parte svantaggiata e quindi le dice: ti devi dare da fare molto più degli altri. La reazione ovviamente della figlia qual è? È interessante, perché ovviamente c'è un livello, un peso di responsabilità immane. Tu vuoi, non vuoi fallire, non vuoi deludere le aspettative immani dei tuoi genitori, che poi di una madre che è passata e sopravvissuta a 3 genocidi, passa da razzismo nel paese, del suo paese, per passare al razzismo dell'Italia, e che lo vedi anche tu concretamente, che ha fatto 3.000 sacrifici, visto che senza di lei non potresti nemmeno avere un regalo il giorno del compleanno, delle cose piccole che diamo per scontati, ma che per me erano veramente delle gocce, questi regali che una volta all'anno che volevano dire moltissimo. E quindi pensa a Sara, che ultimamente collaboro con una radio, Radio Radicale, all'interno del programma Fortezza Italia, e il mio spazio si chiama Eccellenze Afrodiscendenti. Per me parlo di eccellenze non perché siano più famose o più importanti di altre, ma semplicemente perché secondo me sono straordinarie per il fatto che ogni giorno vivono sulla propria pelle e affrontano il razzismo a tutti i suoi livelli. E quindi stavo intervistando questa psicoterapeuta, che è una delle rarissime figure psicoterapeute, se non forse non l'unica, ma ce ne sono veramente pochissime, afrodiscendenti, che lavora proprio con le nuove generazioni. E una domanda che le avevo rivolta era proprio riguardo al rapporto tra le nuove generazioni e i loro genitori, e il carico di responsabilità a livello psicologico che trasferiscono sui figli. E non è facile, perché poi lei mi spiegava che molti dei suoi clienti afrodiscendenti, nuovi, giovani, finiscono per fare degli studi che non desideravano fare, solamente per soddisfare il genitore che credeva in lui o in lei, e alla fine quindi si trovano in crisi, vanno in analisi e non sanno come fare, perché si ritrovano a svolgere dei lavori che non volevano svolgere, no? E quindi il carico di responsabilità sulla protagonista, su di me, è veramente molto pesante. C'è da considerare questo, non è una c'è anche questo fattore in più da considerare nelle famiglie comunque di origine straniera. Ci sono le aspettative, il carico di aspettativa è molto più pesante rispetto a chiunque altro. Volevo fare anche una domanda su, per quanto riguarda il panorama un po' letterario italiano, perché come appunto per parlare di razzismo e di tutte le dinamiche e che ruotano intorno ad esso, è importante e fondamentale che siano le voci che hanno vissuto anche queste esperienze a raccontarle in prima persona. Volevo chiederti che cosa, cioè in che situazione si trova, ecco, il panorama letterario italiano, e se un po' quello che mi viene quando non so, viene presentato il libro della scrittrice afro italiana o un libro che parla del razzismo, a volte mi sto chiedendo se queste parole, questo lessico che viene poi associato, no, anche a queste pubblicazioni, possa rischiare in qualche modo di ghettizzare queste narrazioni e come uscire anche, cioè come far sì che non sia sempre, che non continui ad essere una narrazione dell'immigrazione, una narrazione altra rispetto alla narrazione tradizionale, no? Diciamo che, ecco, questa è la mia prospettiva, poi io non è il mio punto di vista. Secondo me c'è veramente molto lavoro da fare e di nuove voci afrodiscendenti e anche quindi di ragazzi italiani, comunque autori italiani di origine straniera, stanno emergendo sempre di più, decisamente. Però sicuramente non sono ancora abbastanza e più che altro veramente lo spazio che deve essere dedicato in particolar modo agli autori di origine straniera deve prendere forma all'interno del programma delle scuole scolastico italiano, senza essere sempre ancorati ai soliti autori di 200-300 anni fa. Proprio come il programma del resto scolastico che offusca, innanzitutto non arriva mai ai giorni nostri, mentre secondo me bisogna partire dai giorni nostri a studiare e poi semmai andare all'indietro. E tra le altre cose oscura anche certe parti della storia, come per esempio certi passaggi anche all'interno dell'antisemitismo italiano, piuttosto che gli stupri compiuti nel Corno d'Africa e tutte queste uccisioni che non vengono appunto presentate in modo critico e approfondito come invece dovrebbe essere fatto, come hanno fatto tutte le altre potenze, ex potenze coloniali europee, e l'Italia è l'unico paese invece al contrario che non ha fatto. Quindi di lavoro, il lavoro di decolonizzazione culturale all'interno delle scuole è sicuramente molto importante, quindi direi di partire da quello. E dicevo, sicuramente ci sono delle voci molto, molto potenti, molto forti. Una delle primissime è stata appunto anche solo Hijab Ashego. Per me, uno dei miei libri preferiti in assoluto è La mia casa è dove sono, di Hijab Ashego. E di autori e autrici ce ne sono diversi, però la strada da fare è tanto. E poi sì, sono d'accordo con te, Sara, che spesso si rischia veramente di etichettare, come al solito, questa letteratura che invece è letteratura italiana, perché noi siamo italiani. E anche qui, piccola parentesi, siamo persone non da integrare, siamo perfettamente integrati, quindi semmai da essere appunto inclusi e riconosciuti all'interno delle istituzioni in maniera legale, a partire appunto dalla legge sulla cittadinanza di cui ho parlato in maniera approfondita. Quello che mi succede è anche questo, per esempio. Guarda, ti dico un esempio. Io oltre a scrivere, da ormai 13 anni lavoro come fotografa e regista e ho lavorato a circa una trentina di album di musicisti, quindi internazionali, a livello internazionale, musicisti dai paesi meno rappresentati del mondo, a partire dal paese di mia madre, il Ruanda. E settimana scorsa, per esempio, è uscito un album sul nostro lavoro quindi nei campi delle donne accusate di stregoneria in Ghana. Ora la persecuzione alle streghe, quindi la caccia alle streghe, è un problema purtroppo molto attuale e in quanto donna nera e femminista penso che dovrebbe veramente essere gridato questo problema che noi cerchiamo anche di mettere in luce, ma noi non vogliamo semplicemente parlare di un problema, noi forniamo una piattaforma a queste donne straordinarie che veramente incarnano la resilienza perché vivono la morte, cioè rischiano la morte ogni giorno. E parlo di questo perché per esempio, un lavoro che ha veramente attirato l'attenzione dei mass media un po' ovunque, no? Questi sono lavori che fortunatamente hanno richiamo a livello internazionale, è stata coperta dalla BBC più volte, dal The Guardian, è stato coperto da NPR, che è la prima radio statunitense e continua ad essere coperto. In Italia una timida copertura è arrivata l'altro giorno da una piccola radio, che comunque ne ha parlato. Lui è una persona straordinaria, Marco Laurenzano, che ha coperto su Radio Onda Rossa questo argomento. Però ecco, vedi, poi finisci, quello che voglio dire è che tu, finché, cioè, mi vedono come scrittrice che parla di razzismo, va bene, perché può essere un argomento piuttosto in voga o piuttosto no. Però poi quando ci sono queste altre cose in più, cioè quest'altro mondo, invece l'interesse veramente è poco, e questo mi fa davvero dispiacere. Quindi dico questo, sarà perché tu parlavi a volte, finisci per essere etichettata in un certo modo, da quell'etichetta che c'hai, non ti scolli più, ma siamo molto di più. Non è solo una questione di razzismo, e non scriviamo semplicemente per parlare di razzismo, siamo anche moltissime altre cose, e l'ideale è che un giorno appunto tutte le voci saranno uguali, e solamente le voci con più talento meriteranno, cioè avranno più spazio rispetto ad altre. Quindi sarà una questione di talento e quindi non di razza, tra virgolette, che poi il concetto di razza, si sa, non esiste, visto che l'umanità ha un patrimonio genetico comune, e parlare di razza vuol dire parlare di tante categorie quante lo sono le singole persone. Quindi ciao, sono Ilaria, faccio parte anch'io della libreria, e in effetti sì, diciamo che un po' Sara nell'ultimo intervento mi ha un po' tra virgolette rubato la domanda. Nel senso, infatti, quindi non sarà una domanda, sarà forse una riflessione, non so se ti va di dire qualcosa. Io, quello che vedo io nel nostro paese in questo momento, rispetto anche appunto ad altri paesi in cui invece il dibattito su alcune tematiche c'è, quindi pensiamo al Black Lives Matter, pensiamo al dibattito sulle tematiche di genere, pensiamo ai dibattiti sull'inclusione degli LGBTQI, eccetera. Io quello che vedo nel nostro paese, e che appunto mi spaventa, è una negazione del dibattito, ma più che una negazione, una mancanza di assunzione del fatto che ci sia un dibattito. Quindi ciclicamente appunto ci sono degli hype, per cui ora c'è il Black Lives Matter negli Stati Uniti, quindi magari parliamo di migranti o seconde generazioni o di un certo tipo di tematiche. C'è un problema appunto femminile, di genere, sulla violenza di genere, e parliamo di, però ne parliamo toccandola nel mainstream, di mainstream, parliamo toccando la superficie, quindi chiamiamo il migrante, chiamiamo la seconda generazione, chiamiamo la donna, chiamiamo il gay o il transessuale, il qui, però ecco, lo vedo come una sorta, di riserva indiana, la pandizzazione un po' la chiamo, no? della tematica. Quindi tu sei un panda, vieni chiamato. E secondo me è una, e nel resto invece del dibattito tutto rimane esattamente come prima. Quindi anche nello stesso programma mainstream in cui vieni chiamata tu come esempio positivo di donna migrante, eccetera, scrittrice, quello che vuoi, prima e dopo, immediatamente prima e immediatamente dopo, vengono comunque reiterati gli stessi linguaggi sottili di sessismo, di razzismo, mi è venuta in mente questa cosa, vabbè, stupidamente lo dirò e me ne vergogno, il lockdown guardando Sanremo, è stata una cosa stupidissima, l'ho guardato per un'ora in tutto, però allora chiamiamo la giornalista che fa il bel monologo sulle donne, e 5 minuti prima e 5 minuti dopo reiteriamo degli stereotipi sessisti che non lo so, cioè veramente qualcosa che stai lì davanti alla televisione e dici ma è possibile questo? Sì, sicuramente. E quindi è un attimo discutere su questa patologica quasi negazione del dibattito, assenza del dibattito, e secondo me è qualcosa di importante, perché poi finché un dibattito non macina nel meccanismo culturale generale, generalizzato e mainstream, veramente è tanto difficile, no? Secondo me, che entri, perché appunto ho visto, ripeto, me ne vergogno anche, ma 5 minuti prima il bel monologo della giornalista rispetto alla condizione femminile, 5 minuti dopo i due presentatori con le parrucche a cantare siamo donne, tra le gambe c'è di più. Cioè, quindi ecco, volevo un attimo discutere anche con te di questo dibattito che non è minimamente introiettato a livello mainstream, è qualcosa che sfiora la superficie perché forse in questo momento c'è un hype, ma non perché ci sia un dibattito reale. Sì, sicuramente adesso va molto di moda e questo mi terrifica sinceramente, quindi non so, creare dei momenti, ricorrere al, non so, all'afrodiscendente all'interno di questo programma piuttosto che di quell'altro per parlare come al solito di Black Lives Matter o di razzismo. C'è una profonda strumentalizzazione delle persone, dei corpi stranieri, dei corpi neri, che ancora una volta finiscono in passo al dibattito politico, pubblico e mediatico. Assolutamente sono completamente disumanizzati e sfruttati ancora una volta, ed è questo effettivamente è davvero triste, perché tu pensi tante volte, io penso chissà quanto durerà questo momento in cui è molto fashion adesso parlare di razzismo, ma durerà realmente? I problemi intanto sono sempre lì ad aspettarci, e il razzismo istituzionale è ancora lì presente, visto che questo cambio di cittadinanza, di legge sulla cittadinanza, è lì da diversi, è sull'agenda politica da diversi governi, ma ancora nulla è stato fatto, nulla è cambiato. Ecco, sì, sono d'accordo con te assolutamente. Quello che hai detto l'hai spiegato benissimo. Ma se vuoi ti posso leggere qualcosa del libro? Sì, te l'avevo chiesto prima, vero? Ti leggo il paragrafo significativo, che è poi l'introduzione. Okay. Ecco. Questa però è l'introduzione, eh. Eroi pronti a morire per il nostro paese. Quando i miei concittadini mi dicono perché non te ne torni a casa tua, è evidente che non gli sia mai passato per la mente che mi trovi esattamente nell'unico paese che abbia mai conosciuto, l'Italia. Il posto in cui sono nata e cresciuta, il posto da cui ho fatto ingresso in questo mondo e in cui intendo vivere ognuno dei miei giorni fino alla fine. Non c'è altro posto sulla terra in cui vorrei essere. L'Italia è casa mia. Quando testimonio le dure prove che molti immigrati affrontano per raggiungere le nostre spiagge, sospesi tra la vita e la morte, credo fortemente che invece di ricevere una punizione dovrebbe essere garantita loro la cittadinanza. Non sono criminali, ma individui così attaccati al nostro paese da aver rischiato la vita per la benché minima possibilità di viverci. La loro devozione è radicata così a fondo che non può competere con la casualità di un luogo di nascita, perché sono quegli stessi stranieri ad aver scelto questa nazione a ogni costo, a costo della loro stessa esistenza. C'è forse un test sulla cittadinanza migliore di questo? Grazie. Insomma, direi che è una conclusione perfetta questa lettura per la nostra presentazione. E se non ci sono altre domande, ma non voglio dopo prestare troppo su questo punto. E comunque niente, a nome di tutta la libreria volevamo ringraziare tantissimo, adesso Giovanni non so se comunque Marilena per la sua disponibilità e la sua attenzione e partecipazione nelle risposte anche, e anche a tutti voi e a tutte voi che avete partecipato e che ci seguite sempre con molto affetto. E il libro lo potete trovare anche da noi in libreria, ordinarlo attraverso barricate di carta o nella vostra libreria di fiducia, anche dovunque voi siate. E ha edito poi la Red Star Press, penso di averlo detto, ma bravissima, lo ricordo. Esatto, e poi vi consiglio anche di andare a vedere il sito di Marilena, perché io mi sono innamorata del tuo sito, dove ci sono tutti i tuoi lavori e le 2 miliardi di cose che fai. Grazie Sara per averlo detto, è www.marilenadelli con la D di Domodossola e due L di Livorno .com, e qui sì, effettivamente vedete lavori come scrittrice, ma anche come videografa, cioè fotografa e regista, per, come ho detto prima, sono circa 30 album di musicisti dai paesi meno rappresentati del mondo, e l'ultimo progetto è Witch Camp Ghana, sulle donne accusate di stregoneria in Ghana, che è uscito venerdì scorso. E se volete saperne di più, appunto sul sito trovate informazioni, ma anche sulla mia pagina Facebook, se volete, che è Marilena Umuhoza oppure Marilena Delli Umuhoza, su Instagram anche. E niente, quindi ecco, se non ci sono altre domande, direi di salutarci e speriamo di incontrarci un giorno di persona. E grazie mille a tutte e a tutti e buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti e muracose, che è grazie in Kinyarwanda, la lingua di mia mamma.